anche lei per me non va di letto. Volaron già tre lune da che la mia Violetta oggi per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste. O vario macchiavezzo vede a schiavo ciascun di sua bellezza, e or contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. Qui presso lei a rinascer mi sento, e la soffio d'amor rigenerato scorre. Thank you. Und denkest, quält dich gut. Trag dir an, sagst du, oh, mit dem Mut.